Buonasera, buonasera, benvenuto a questa nuova puntata di Mike FM. Chi vi parla è Claudia Maitimau dagli studi di Radio Peros, come sempre per questa puntata di pienissima estate, per parlare di un evento che si svolgerà alla fine di agosto e all'inizio di settembre, un festival che ormai ha aggiunto una grandissima dimensione e una grandissima fama. L'abbiamo parlato con il fondatore e il creatore di questo evento, ovvero Amedeo Lombardi, in una lunga telefonata, e adesso ve lo facciamo sentire diviso in quattro pillole. Abbiamo parlato con Amedeo di questo mega evento, l'Home Festival. Ecco a voi la prima parte. Siamo al telefono con Amedeo Lombardi, fondatore, creatore, anima visionaria di questo mega evento, probabilmente l'evento musicale più grande dell'estate italiana. Visto che è la prima volta che ne parliamo qui a Radio Kairos, a Mite FM, lo so, ci sono tantissime interviste, io stessa mi sto documentando ovviamente sulla tua persona, sulla tua visione e sulla tua creazione, però un po' di informazioni tipo: qual è il tuo background? Allora, intanto ciao a tutti. Io fondamentalmente come background ho studiato a Milano dopo aver girato un po' il mondo, ho fatto IET. È l'unica cosa, ho cambiato veramente tanti lavori, tante cose, però la cosa che mi sono sempre portato dietro da quando sono nato è sta forte passione per la musica. Passione proprio da ascoltatore, da chi partecipa a eventi musicali, e il festival è nato proprio per il fatto che sentivo parlare di sti mega raduni in giro per il mondo, e un giorno ho detto: ma perché non farne uno in Italia, perché non provare a farne uno proprio qua a casa nostra? E questa è stata l'idea fondamentale di un luogo che possa essere considerato casa, cioè un posto dove stare bene, ma soprattutto un posto che possa accogliere tutti. Infatti, se uno guarda i nomi, che sono tipo quasi 100, forse anzi con la giornata zero, forse sono anche di più, ha un appeal universale, insomma, per gli amanti di tutti i generi musicali. E questo è il vostro, insomma, scopo ideale. Infatti la volontà è quella, fai più di avere un genere musicale o quant'altro, proprio come dicevi tu, di costruire una vera e propria casa, una casa che appunto sia accogliente e quindi che ci sia un po' vari generi musicali, piuttosto che anche varie forme d'arte, perché noi oltre alla musica poi ospitiamo anche scrittori, performer, artisti come Michelangelo Pistoletto, o faccio per dire altre forme proprio di arte come potrebbe essere la scultura o la danza. E la volontà è quella di appunto creare una sorta di casa dove l'importante è avere un'esperienza che in qualche modo formi. Infatti, mettere così tanti palchi dove ci siano gruppi famosi che si alternano a gruppi, diciamo, che devono ancora farsi conoscere, generi musicali diversi, proprio per far sì che una persona cerca un po', sai, quello che è più nella sua attitudine, quindi in un mega fa conto ventaglio di possibilità, vada presso quelle che più la pagano in quel momento. Oppure anche scoprire tante realtà nuove. Io stesso, ci sono tanti nomi italiani emergenti che non conosco, e poi anche l'offerta dell'entertainment, diciamo, è varia, perché mi ricordo, io sono venuta 2 anni fa per Interpol, Franz Ferdinand, Sparks, mi ricordo che c'è anche tipo attrazioni da Luna Park. Esatto, è proprio la volontà di far vivere, ripeto, un'esperienza sull'intrattenimento a 360 gradi. Ci sono tanti ristoranti, quest'anno mi sembra che ci saranno 40 e passa ristoranti diversi, c'è Luna Park, Bungee Jumping, area dedicata ai bambini, quindi veramente chi più ne ha più potrà farne. E quindi si ricollega anche al territorio, perché insomma il Veneto, il Trevigiano è anche terra di giostrai. Sì, è vero che ci sono delle grosse aziende, 2 delle più grosse aziende mondiali sono qua in Veneto, sono. Quindi diciamo, abbiamo ripercorso le strade che aveva già aperto qualcuno proprio di intrattenere e far divertire le persone. I'm the only one in the house. e siamo tornati alla programmazione musicale del festival che appunto ci è stato introdotto da Amedeo Lombardi, questo festival che il day one teoricamente era giovedì 31 agosto, invece si è aggiunto in corso d'opera una giornata, il day zero, a partire da mercoledì 30 agosto, sponsorizzato da Aperol Spritz, cioè quanto c'è di più veneto, ad ingresso gratuito, e sono tutti artisti italiani: Max Gazzè, Omar Pedrini, Eva Peverello, Los Massadores, Bastard Sons of Dioniso e molti altri. Ma la giornata principale, insomma vera e propria dei concerti, quindi anche a pagamento, è quella di giovedì 31 agosto, che vede appunto una concentrazione dei nostri beniamini. Infatti ascolteremo ben 10 band da quella giornata, a partire appunto dalle nostre, potremmo dire, amiche milanesi, I'm Not a Blonde. I'm not a blonde, but I'd like to be blondie, I'd love to be blondie. E questo duo milanese, ovvero Chiara Castello, ex Two Pigeons, noi abbiamo conosciuto appunto con i Two Pigeons, e Camilla Matley, hanno pubblicato diversi EP, EP1, EP2, EP3, credo a partire dal 2014-2015, e poi sono stati raccolti in un album nel 2016, Introducing I'm Not a Blonde, e poco tempo fa, a maggio, hanno pubblicato questo nuovo singolo, A Reason. A volte i criteri con cui noi mandiamo, insomma, l'ordine di trasmissione dei pezzi è per giornate, per orario, in ordine alfabetico. Questo invece non è voluto da noi, ma è preso proprio dal cartellone del festival, dove sono elencati tutti i gruppi partecipanti, che appunto, partendo dal basso verso l'alto, il primo nome conosciuto ed amato da noi sono I'm Not a Blonde, un elenco assolutamente soggettivo probabilmente di chi l'ha fatto, infatti insomma contiene un po' delle cose che mi hanno fatto strano vedere il nome degli After Hours così più piccolo di Mannarino o Gali, per esempio. Insomma, come per quanto riguarda i nomi nei cartelloni dei film, anche quelli insomma dei festival, dei grandi festival internazionali, insomma c'è chi litiga proprio per un punto di font. Give me a reason, I'm not a blonde, but I'd love to be blondie. Chiara e Camilla from Milan, che sono venute spesso e volentieri a trovarci dal Cassero e poi da ultimo ad Elastico, e poi un altro nome proprio nato nella marca trevigiana, Davide Vettori. Cammino solo per pensare, per tenere quel che serve e per lasciare andare. Tutto sembra fermo. Cammino nel silenzio che c'è fuori, per il suono del mio cuore e per cambiare umore. Tutto sembra fermo. Tutto sembra in movimento, tutto sembra fermo, tutto sembra in movimento. Cammino per tenere il ritmo, cammino per restare in gioco e rallentare il quotidiano quando è troppo poco. Tutto sembra fermo, tutto sembra in movimento, tutto sembra fermo. Questo è Repetitive Walk, pezzo nuovissimo, 20 luglio. Cambiano le emozioni, come cambio giacca quando cambiano le stagioni. Un brano ed un video nato dalla performance di Hamish Fulton. Dicevamo Davide, 1981, Treviso, Electro, italiano, testi in italiano, è una forte propensione a unire arte, grafica e musica. Noi l'abbiamo conosciuto anche personalmente quando siamo andate all'Home Festival 2 anni fa, quando era uscito L'Impero della Luce. Un album che conteneva anche Sogni nel cassetto, un duetto con Angela Baraldi, e appunto pezzi di questo disco si possono sentire anche su Radio Kairos. Cambierà l'asfalto, i fiumi sotto i ponti, gli incroci delle strade ed il volto che ho davanti. Tutto sembra fermo, tutto sembra in movimento, tutto sembra fermo. Dicevamo appunto che questo pezzo si è ispirato alla performance di Hamish Fulton, Walking Artist inglese, una performance tenutasi a Palazzo Ducale di Venezia in chiusura della 56esima Biennale. Ricordiamo che precedentemente Davide aveva pubblicato un altro singolo primitivo accompagnato da un videogioco in HTML molto molto retro, tipo Donkey Kong, dal titolo appunto Primitivo. Quindi siamo contente che anche lui suonerà il 31 agosto, giovedì, primo giorno ufficiale del Home Festival, e ci dispiace che invece nello stesso giorno non ci sarà Christo. Christo, ovvero la nuova personalità artistica di Claude, di Yoris Eyes, che tanti anni fa abbiamo conosciuto insieme a Sofia, che adesso ha assunto un'altra identità musicale anche lei col nome di Lim. Il 29 aprile è uscito il suo album Ecstasy, pop melodrammatico, sebbene questo pezzo Light Years sia molto leggero, molto pop, molto Kate Bush, che è una delle sue idee. E anche se questo riff ricorda un po' Hello Hello, Smells Like Teen Spirit, e anche un po' Everybody Wants to Rule the World, perché le influenze anni 80 sono assolutamente dichiarate. un album prodotto da Mario Conte che lo accompagnerà anche nelle esibizioni live, frutto di 3 anni un po' di tormenti, di dubbi esistenziali, artistici, musicali. Invece poi, con l'aiuto di Mario Conte, che ha scelto proprio come produttore, dopo aver sentito il lavoro che aveva fatto con Colapesce, e abbiamo voluto mettere un altro pezzo da Ecstasy. Questo inizio sembra molto This Love, Craig Armstrong con la voce dei Cocteau. È il pezzo di chiusura del disco, si chiama Recognize. Che questo you è un po' Iris. No more than ever, happy feelings show your face. The rhythm of lust, the right moment to finisce Recognize di Cristo, che invece suonerà al festival sabato 2 settembre. E questo ormai, insomma, sembra che facciamo delle le cosiddette marchette, ma invece niente, continuiamo a passare dei suoi pezzi, praticamente tutto l'EP, perché si tratta di una delle realtà italiane emergenti e molto attive, molto presenti in tutti i festival di cui abbiamo parlato, dal Primavera a Spring Attitude. L'altra volta l'abbiamo sentito per il Today's, e poco dopo il Today's, Wrong on You, Marco Zitelli from Rome, sarà anche a Treviso. Questo è sempre un pezzo tratto dall'EP di Mountain Man, si chiama The Lake. Abbiamo scritto sulla presentazione di questa puntata, l'Home Festival è nato nel 2010 partendo appunto da, ma ne parleremo poi ancora, si sentirà con Amedeo Lombardi, da un locale, l'Om Rock Bar, e poi è diventato un festival gratuito per le prime edizioni, concentrata su artisti italiani fondamentalmente. Poi insomma c'è stato il salto e questa aspirazione ad evento globale. E un altro nome che abbiamo sentito da poco è la giovanissima Alice Bisi, ovvero Birth. Ne abbiamo parlato appunto in occasione del Today's Festival, anche lei si fa questo 1-2 come Wrong on You. Adesso ci ascoltiamo quello che è stato il singolo, il video tratto da Born in the Woods, il suo esordio. Questo pezzo si chiama Chlorine, è spaventosamente simile a Spanish Sahara dei Falls, come tensione, come sì, qualche nota, forse anche qualche immagine, Demon in My Head, vabbè. Senza dimenticare sempre lo spirito di Elena Tonra, che probabilmente si è impossessata della giovane Alice, o viceversa. Abbiamo detto, l'ordine dei pezzi si basa su quello opinabile assolutamente presentato dal cartellone ufficiale del festival, Home Festival, e anche Birth si esibirà sabato 2, stesso giorno di Cristo, mentre il 31 agosto, sempre il giorno giovedì, dove ci saremo anche noi, ci sono anche coloro che nella domenica pomeriggio di Torino del 27 agosto saranno mattatori di un pool party in piscina nell'ambito del Today's Festival. A me fanno ridere. Mi cadono le palle, i pantaloni tipo si sono rotti e Pop non ho X più Popper, sempre da lesbiani. Perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me. E soprattutto che sono un froccio perso dal cielo. Secchio. Mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi. Perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare. Per me che sono, per me che sono un froccio perso. E ne abbiamo parlato l'altra volta, dopo essersi creata una fanbase vastissima attraverso i loro video assurdi su YouTube, hanno finalmente pubblicato due album nel 2015, diciamo una raccolta di loro grandi successi e anche dei canti di Trento e Bolzano, che si chiamava. E ricomincia a piangere come un secchio invece questo disco ha una produzione molto più patinata e i testi sempre tra il surreale demenziale e l'estremamente volgare. O meglio, triviale, magari volgare, è un giudizio di merito. Le palle e i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e irrazionale per me, che sono un frocio perso, dal cielo mi cadono le palle e i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura. L'altra volta avevamo ascoltato Azzurra, mentre questo è uno dei singoli video. Per me che sono un frocio perso, sempre nel loro stile. Come ci sono, che ne so, musicisti, i rapper americani che si fanno i video seduti sui macchinoni, loro sono tutti in gruppo 4-5 intorno ad una apetta, ovviamente. Come un secchio d'acqua svuoto tutto nella macchina. E ricomincio a piangere. Detto, giovedì 31 è il giorno in cui si concentrano tutti quelli che ci piacciono di più, perché appunto i festival sono fatti così, sebbene questo festival, ne abbiamo parlato con Amedeo, abbia un appeal veramente universale, perché c'è di ogni e tantissimissime realtà, piccolissime realtà italiane. Ovviamente per attirare chi va solo un giorno si mette, insomma, degli artisti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, e uno di questi è Lorenzo Nada, nostro Lorenzo Nada, God Bless Computers, di imminente uscita l'8 settembre suo nuovo lavoro Solchi, di cui stiamo ascoltando questo delicato strumentale abbastanza breve che si chiama 1989, non so se si debba leggere 1989, che è il primo e l'unico che finora è stato diffuso sui suoi canali, e appunto aspettiamo l'uscita di Solchi. Siccome insomma il pezzo era un po' troppo breve, ci abbiamo unito uno dei pezzi più belli dell'album precedente, Plush and Safe, del 2015, che mi ricordo venne presentato proprio al momento del suo live a Spring Attitude, dove ci eravamo, e questa è Closer. E giovedì 31 dovevano esserci anche gli M più A, che proprio mentre stavamo preparando la trasmissione abbiamo visto un loro comunicato sulla loro pagina Facebook, che non suoneranno ai festival di fine agosto, due festival italiani fine agosto inizio settembre, appunto perché stanno registrando il disco. Altrimenti ci sarebbero stati anche loro il 31, ma ci sono abbastanza motivi per volerci andare, ma anche per chi vuole farsi appunto questa esperienza totale di vita nel festival attraverso la possibilità di campeggio, per esempio, che offre diverse soluzioni. Uno può andare con la propria tenda, oppure, se non ha voglia, pagando ovviamente di più, può scegliere diverse formule: la tenda semplice da due con materasso gonfiabile, e poi su a crescere fino ad avere la tenda deluxe con proprio dei veri e propri letti a cura di pop-up hotel, veranda fuori, luci a led, tappeto, insomma un sacco di comfort. Tra l'altro c'è anche un'area camper, anzi diverse aree camper per credo un'ottantina di posti, se appunto qualcuno vuole fare, ha il camper e vuole farsi appunto là il soggiorno e andare al festival. Festival, come abbiamo detto, pienissimo di attrazioni, le più diverse, a parte in classica zona ristoro, ma poi le giostre, tantissime associazioni con i loro banchetti di carattere etico-sociale, perché poi anche l'impronta etico-sociale è abbastanza pronunciata, insieme a una visione di, diciamo, imprenditoria illuminata che vede appunto una grande sinergia anche con la locale realtà imprenditoriale dell'industriosissimo Nord-Est. E adesso arriviamo ad un personaggio che uno dice: ma come, ti piace? No, cioè mi fa simpatia, mi fa molta simpatia, perché da anni io avevo ricevuto da Diego del New Fabric lo studio etichetta di Fermo, di casa mia, un EP di questo giovane rapper che aveva fatto appunto la sua prima pubblicazione qualche anno fa. Era Mudimbi, è Mudimbi. Senza aver parlato, capito, dico, mi sono spiegato, scusate tanto, ma spiegarmi non sono proprio più abituato. Allora giorno dopo giorno senti l'empatia che sale, mezzanotte, mezzogiorno, nessun italo congolese, uguale, ma marchigiano congolese, anzi san benedettese, quindi vienimi a svegliare, dobbiamo stare uniti come ha fatto un numero di featuring infiniti, si è distinto per lo stile, per dei testi molto intelligenti, soprattutto per una mancanza di accento, soprattutto milanese, tantissimi video, molto ironico, lui si traveste tantissimo, anche per esempio per questo pezzo Empatia si veste da sirenetto, anche perché insomma c'ha un fisico che levati. Empatia sembra una follia, colora l'apatia, Dio monotonia, la testa è tipo perché a fronte di un pezzo così leggerino ed estivo come Empatia, nel suo album Michelle del 2017 c'è anche un pezzo come Schifo, se siete curiosi andatelo a sentire, che è molto molto peso ed impietoso. Non mi serve nient'altro, perché quello che ora è l'oro, con il tuo pensiero le giornate grigie le coloro, sorrisi divisi da ore di lavoro si ritrovano in un posto nascosto che conoscono solo loro. Credo che tu sia perfetta, è una vita che ti aspetto, credi di essere imperfetta, sono il tuo peggior difetto, credimi è tutto perfetto quando l'empatia dilaga, credi che io sia perfetto, credo che tu sia ubriaca. Empatia sembra una follia, colora l'apatia, Dio monotonia, la testa è tipo oh, il cuore è come oh. E sono andata a leggermi soprattutto i testi sicuramente scritti da lui nel suo sito. Il cuore è come che è mudimbi.com, di come racconta che dopo 10 anni di operaio in un'officina in cui era stato assunto veramente non sapendo fare niente per la bontà del padrone, insomma, di questa officina, dopo 10 anni ha deciso di provarci davvero, di licenziarsi e di fare della musica, insomma, la sua vita. Un orario, tu più fusa di una gatta, io di ferro, tu di latta, io di classe, tu coatta, e se l'amore rende ciechi abbiamo già la cataratta. Empatia sembra una follia, colora l'apatia, Dio monotonia, la testa è tipo oh, il cuore è come oh. Empatia sembra una follia, colora l'apatia, Dio monotonia, la testa è tipo oh, il cuore è come oh. Empatia sembra una follia, colora l'apatia, Dio monotonia, la testa è tipo oh, il cuore è come oh. Un festival che, lo ricordiamo, in zona dogana di Treviso, vicinissimo all'aeroporto di Treviso, è molto radicato nel territorio e anche con appunto la realtà imprenditoriale e industriale del nord-est. Sì, assolutamente, per conto di una delle peculiarità nostre è stato il fatto proprio che quasi tutte le persone che lavoravano, quasi tutte le aziende che lavoravano, cioè sono aziende locali che tra l'altro sono cresciute, si sono sviluppate con noi. Anche partendo anche dalla tua prima attività imprenditoriale, credo che sia... Sì, infatti noi nasciamo come vero e proprio come un bar, infatti sì, che è qua a Treviso che si chiama Onda, dove poi è nata la manifestazione, per cui c'è un rapporto continuo con il territorio, non soltanto durante i giorni della manifestazione. E poi anche una vera e propria agenzia che è l'Home Entertainment, quindi diciamo che avete creato un indotto anche. Indubbiamente, fa conto che soltanto in agenzia ora ci sono 7 persone che si dedicano tutto l'anno, fiste più, sai, tutti quanti consulenti o quant'altro, per arrivare a un 500 persone che si dedicano a realizzare le mie visioni, chiamiamole così. E poi tantissimi partner tecnici, perché appunto è una macchina dal punto di vista proprio pratico, fisico, concreto, che coinvolge tantissime professionalità. Indubbiamente, infatti c'è veramente, quando ti parlavo prima di queste 500 persone, sai, c'è dalla persona più specializzata al ragazzo che vuole farsi un'esperienza, che inizia a darci una mano per montare i palchi, a spillare birra, fino ai ragazzi che sono partiti così, e fa conto le 6 o 7 persone che ora mi danno una mano a realizzare la manifestazione, tutte persone che hanno fatto una sorta di crescita interna appunto alla manifestazione, appunto a questa agenzia. Quindi chi è partito come barista, chi è partito come il fotografo, chi era quello che faceva le storie, insomma faceva tutta la parte di social, fino a che ora hanno trovato una creazione di professionalità e competenze. Ritornando alla musica, appunto ho detto, se uno guarda il cartellone, a parte il numero enorme, penso che appunto sia la manifestazione in assoluto più grande d'Italia, che si ispira a altri eventi totali, no? Come la vostra partnership c'è stata anche con lo Siget Festival, oppure in realtà ad oltreoceano, come per esempio Coachella. Noi, infatti quando ti parlavo del sogno, no, che avevo, della visione, io sono appena tornato, guarda, proprio poche ore fa sono tornato da Bruxelles, che dove ho partecipato al Tomorrowland, per cui la volontà è proprio ispirarsi a quel tipo di manifestazione, cioè riuscire a regalare quegli attimi e quei momenti che in Italia si fa ancora difficoltà a trovare, per cui la volontà è quello che secondo me ci contraddistingue, a prescindere dal numero di artisti, dal numero di palchi, dal calibro degli artisti, è proprio il fatto di voler dare, quello che si diceva all'inizio della nostra chiacchierata, uno spettro di possibilità che non sono solo musicali e non sono solo di divertimento, ma anche culturali. Quest'anno noi abbiamo introdotto l'acqua gratuita, è una manifestazione che riesce a riciclare il 90% dei rifiuti prodotti, per cui sai, andiamo proprio nella direzione dei grossi raduni. Abbiamo introdotto il campeggio lo scorso anno, tutte le persone che arrivano durante le giornate riusciamo a creargli degli eventi collaterali, quindi concerti al di fuori dell'aria piuttosto che mostre. Questa cosa dell'acqua gratuita è veramente una cosa lodevole, quando molte volte ci sono degli eventi, ma magari diversi, quelli più di clubbing, di festival, di musica elettronica, che fanno veramente pagare l'acqua come l'oro, quando invece diciamo che l'acqua in certe situazioni è una risorsa veramente vitale. Quando si sta ai festival, che si balla, si salta, ci si diverte, ci si dimentica a volte di idratarsi, e se poi l'acqua costa anche un po', uno magari pensa, tanto bevo la birra, ma non è la stessa cosa. È una delle pratiche che si suggerisce a chi è che ha fatto corso, è proprio la riduzione del danno, è il fatto di riuscire a idratare i corpi in determinati momenti del divertimento, ecco, la prima soluzione che si consiglia, ed è uno dei motivi per cui non l'abbiamo fatto. Come si sarà capito, era un'altra clip della intervista ad Amedeo Lombardi. questo evento totale, immersivo, dove c'è sempre qualcosa che succede. Se non vuoi vedere un concerto, vai su una giostra, se no mangi, se no vedi una mostra, perché è un'area enorme, appunto quasi 100.000 metri quadri, in questa zona dogana molto facilmente raggiungibile, perché poi appunto è vicina all'aeroporto di Treviso. Aree parcheggio, insomma una grande anche attenzione alla sicurezza, infatti poi lo dirà Amedeo, fanno parte di questo ente internazionale che si occupa della sicurezza, che ovviamente è una preoccupazione assolutamente attuale, diciamo. O sempre più attuale. Ma cosa stiamo ascoltando? È un altro artista che suonerà sempre giovedì 31 per la nostra gioia, ovvero Cristiano Crisci, Clap Clap, anche questo insomma ormai un regular di Might FM. Sempre tratto dal suo ultimo album di quest'anno, Thousand Skies, questo è Ngwe featuring Bonegziwe Mabandla. Ma sarebbe anche ora di parlare del grande evento di questa trasmissione, ovvero Mighty FM mette in palio, ovviamente in collaborazione con Home Festival, grazie all'ufficio stampa di Home Festival, ci sono stati regalati due biglietti per partecipare ad una giornata. Una giornata specifica, non una giornata a scelta, non lo abbiamo comunicato prima, ma c'è in palio una coppia di ingressi per la giornata di domenica 3 settembre, ufficialmente il day 4, dopo il day 0 di mercoledì 30. Giornata di chiusura del festival che insomma finisce con dei nomi di un certo peso, perché se è vero che il nostro giorno preferito è quello del 31, di cui infatti passeremo 10 artisti del cartellone, il secondo insomma in ordine di preferenza è quello di domenica 3, di cui ascolteremo 7 gruppi o cantanti che suonano quel giorno, invece di venerdì 1 solo 3, ci potevano anche essere Planet Funk, però ho sentito proprio oggi il nuovo singolo uscito da meno di 24 ore, You Can Be, che rivede appunto il ritorno di Dan Black, però insomma non si sono sforzati tantissimo, e anche la giornata di sabato 2 non vede molto, insomma non incontra molto i nostri gusti, e infatti ascolteremo solo 3 acts. Vivere in cima ai monti, in mezzo ai campi, morire nei parchi pubblici come santi, vivere prigionieri nei piani futuri, morire sdraiati tra i papaveri, vivere felici, contenti e poveri, morire senza pensieri con la febbre alta a tangeri, vivere tracciabili nei desideri, nei movimenti, morire come rondini, moscerini, tossicodipendenti. E poi dormire da soli, contare i secondi tra i lampi e i tuoni, per cercare di capire quanto sono lontani bombardamenti e temporali. Vivere solitari in palazzi enormi, morire tranquillo mentre dormi, vivere con un milione di rituali, morire e sentirsi immortali, vivere dalla parte sbagliata delle acque territoriali, morire e generare aurore boreali, vivere con un cuore intermittente, morire facendo finta di niente. Probabilmente l'avete riconosciuto, Vasco Brondi, le luci della centrale elettrica, con questo pezzo che mi capitò di sentire in radio proprio all'uscita di questo album, Terra. la finestra del palazzo. E poi alla fine, ascoltando tutto l'album, è quello che mi piace. Moscerini. Infiniti. Vivere in un seminterrato su una scogliera. Morire ma stasera chi se ne frega. Vivere insieme tutta la vita. Morire che ancora non mi sarei bastata. Vivere un milione di cose da immaginarsi. Morire a vent'anni o precipitare senza ferirsi. Vivere dove gli uragani non fanno vittime. Morire e ritrovarti nel deposito delle anime. Vivere con guerre in sottofondo. Morire in una notte luminosa come il giorno. Puoi dormire da soli, contare i secondi tra i lampi e i tuoni, per cercare di capire quanto sono lontani bombardamenti e i temporali. Un disco che contiene, diciamo, dei puoi suoni etnici, ma di nessuna etnia particolare, su di tutto il grande mix che siamo diventati noi. Orizzonti infiniti. L'Europa, ma soprattutto il sud dell'Europa, con tutti i fenomeni di immigrazione di massa, di rifugiati, di persone che rischiano la vita per provarci. E le luci della centrale elettrica suoneranno domenica 3, quindi chi vuole vederli insieme a tanti altri nomi di un certo peso può provare a vincere uno. Insomma, diamo una possibilità, non è che adesso uno che partecipa e vince e risponde bene alla domanda che farò vince la coppia di biglietti. Devono essere appunto due persone, poi magari ci vanno con chi vogliono, si smezzano poi insomma il biglietto. E un altro gruppo che siamo molto contenti di vedere, ovvero rivedere, e che non avevamo mai calcolato molto, anche perché avevamo avuto una prima brutta impressione quando li vedemmo tanti tanti anni fa a Benicassim, ma poi li abbiamo rispolverati con un bellissimo album che era Luminous di qualche anno fa. Tre anni fa erano gli Horrors, anche loro giovedì 31. Avevamo ascoltato ed apprezzato quel disco perché li vedemmo appunto a un altro festival qui alla Fiera di Bologna. È stato un evento un po' sfortunato, ma insomma, dopo qualche anno di silenzio, dopo aver solo sentito qualche mese fa la voce del frontman Faris But One nel bellissimo pezzo Controller di Hercules Love Affair, pochi giorni fa hanno pubblicato questo nuovo pezzo, Machine. Dopo Controller, che immagino che il testo l'abbia scritto lui, insomma, dove chi canta si paragona ad una macchina che vuole essere usata, questo titolo Machine è coerentemente adatto in anticipazione del nuovo album degli Horrors che uscirà il 22 settembre, che si chiama VV come 5, come quinto album. Mi spiace molto che in occasione di questo super contest, in cui Mighty FM regala due biglietti per una giornatona super intensa come quella di chiusura di domenica 3 settembre del Home Festival di Treviso, la nostra chat del nostro sito www.radioperos.it, da cui qualcuno probabilmente sta ascoltandoci via streaming, non funzioni, e quindi abbiamo pensato all'escamotage di dare un indirizzo email a cui chi partecipa a questo contest possa mandare la risposta della domanda che faremo tra poco. E questo ritmo kuduro in realtà è Levante. Ma a casa sono brava a far la guerra, la storia è sempre quella. Noi siamo tutti uguali, ma il colore della pelle conta. Se parte la rivolta, combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera. Di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera. Non me ne frega niente, singolone e video del suo ultimo lavoro. Nel caos di stanze stupefacenti, che all'inizio insomma l'avevo ascoltato male e l'avevo giudicata male, invece è una critica, è una satira abbastanza affilata contro chi esprime la sua indignazione, tristezza, appunto la propria verità sui social, e poi però magari insomma tutte concentrate nel proprio orticello, e quando poi ecco in piazza scendo solo per il cane, e poi quando appunto succedono le grandi tragedie sei solo contento che non sia capitato a te. Claudia Lagona, classe 87, origini siciliane, poi però insomma torinese di adozione, primo album nel 2013, manuale di istruzione senza apostrofo, poi Abbi cura di te e questo ultimo Nel caos di stanze stupefacenti. Diventò virale il suo Alfonso. E poi ho fatto una scoperta incredibile, che nel 2015 si è sposata con Sir Bob Rifo, ovvero The Bloody Beetroots, ma adesso già non stanno più insieme. Anche lei, un'artista che la vai a vedere una volta e c'è un pubblico abbastanza esiguo, vai a vederla 8 mesi dopo, come accadde per esempio per il biografilm qui al Cavaticcio, e c'era il pienone assoluto, e penso che adesso appunto cresca a livello esponenziale. Un altro nome internazionale che ci piaceva tanto una decina d'anni fa, perché fecero dei pezzoni incredibili come Body Language e Mandarin Girl, sono i tedeschi Buca Shade. E diciamo che la programmazione oggi di Mighty FM in piccolo, cioè microcosmo di tutta la varietà utilizza il cartellone dell'Home Festival perché si sa che anche noi abbiamo dei gusti abbastanza eclettici. Francoforte, Walt Merzig e Arno Kammermeier, fondatori della etichetta Get Physical, hanno pubblicato da poco un nuovo album che si chiama Galvani Street, ma in realtà è una collaborazione a tre, in quanto quasi tutti i pezzi vedono la partecipazione vocale di Craig Walker degli Archive. E in un pezzo anche la partecipazione di, oddio, non saprei pronunciare il nome, ma il cantante di Gus Gus. Insomma, annunciamo che tra poco faremo la domandona per la vincita di due biglietti per un ingresso, cioè due ingressi, un biglietto, un ingresso, due biglietti, due ingressi per la giornata di domenica 3 al Home Festival che stiamo raccontando e ascoltando in questa forse ultima puntata, non si sa ancora. Allora, visto che l'Home Festival si è contraddistinto all'inizio, per, soprattutto nelle sue prime edizioni, per avere un focus su realtà italiane e spesso locali, e che appunto è un festival così grande che vede forse più attenzione e valorizzazione alle realtà musicali che poi appunto non le ascolterà nessuno, non faranno strada, però almeno avere l'occasione per una volta di suonare ad un evento così grande. E devo dire che la maggior parte di questi nomi io non li conosco. La domanda che faremo, e come sottofondo in modo abbastanza adatto e casuale direi, cioè: se io fossi il giudice After Hours, oggi svegliandomi ho realizzato che tutto il resto è stupido, voglio provare a vivere, che ci sia luce oppure sia oscurità, cammino come un uomo e parlo come un uomo, e in mezzo a tutta questa casualità, cosa potevi fare, cosa potevi avere, potevi mai capire, poteva mai finire, se io fossi il giudice mi inginocchierei e darei il tuo nome a ogni preghiera che riconoscerei. In mezzo a tutta questa casualità, After Hours, il cui nome in cartellone figura sempre domenica 3 settembre, quindi voglio dire, già abbiamo affilato Levante, non l'abbiamo detto, c'è anche lei. Levante, le luci della centrale elettrica, After Hours, Wrong on You, di quelli che abbiamo ascoltato. e i nomi grossi ancora devono arrivare. Put After Hours che vengono dopo, Mannarino, Marragué, ma neanche so i nomi, e Gali. Forse uno dei pezzi più melodici e lirici di un album altrimenti molto molto duro e sperimentale, Fall Fury o Fall Fox, d'altra parte che insomma prende spunto da un'esperienza esistenziale, la perdita del padre per cancro del nostro caro amico Manuel. Voglio provare a vivere. La domanda è: volete vincere 2 biglietti? Per entrare a vedere tra gli altri gli After Hours domenica 3 settembre all'Home Festival di Treviso, dite tutti in coro: sì, lo voglio. E dicevo, visto che la presenza degli acts italiani è così preponderante nel cartellone e nella storia dell'Home Festival, la domanda è: allora, innanzitutto diciamo dove bisogna mandare la risposta. Dovete mandare una mail, i primi due che manderanno una mail con la risposta, si spera giusta, al seguente indirizzo: Mighty4Mau, Mighty come Mighty FM, come Mighty Mau, ovvero mighty4mau@gmail.com. ripeto, Mighty4Mau, Mighty4Mau, MIGT con l'H in mezzo, 4mau@gmail.com. La domanda è: nella giornata di domenica 3 settembre quanti sono numericamente gli artisti italiani? Oggi svegliandomi credevo fossi tu che mi dicevi stupido, devi tornare a vivere. Vuoi metterti nei guai? Cantano i Soul Walks, anche loro, sì, grazie, vai! Giovedì 31 agosto, day one ufficiale del Home Festival. Soul Walks che hanno pubblicato a fine marzo From the We, a cui noi dedicammo una bella puntatona monografica e andammo a vederla appunto nel tour di supporto appunto all'uscita dell'album il 29 marzo a Milano. E quando ebbi l'occasione di apostrofare lui, fratello De Wala, fratello grande, cantante, ho detto: io ho fatto una trasmissione di 108 minuti su di voi. Lui mi ha guardato e mi ha detto: why? Ripetiamo, non stiamo controllando se stanno arrivando dei messaggi, immagino che saranno con una valanga di mail all'indirizzo mighty4mau, magari adesso lo scriviamo anche sul nostro profilo Facebook, mighty4mau, mighty4mau@gmail.com. La domanda è: quanti sono di numero gli artisti cantanti italiani che si esibiranno nella giornata conclusiva del 3 settembre dell'Home Festival, per la quale regaliamo 2 ingressi? Mentre questo Do You Want to Get Into Trouble è l'ultimo, secondo poi alla fine, singolo tratto da From the We, che poi anche in trasmissione avevamo sentito parzialmente perché mixato con altre tracce, quindi insomma è giusto ascoltarlo per intero. E finisce Do You Want to Get Into Trouble dei fratelli The Walla, ovvero Soul Walks. E passiamo appunto a uno dei nomi più grandi che chiudono il festival domenica 3 settembre. The Charlatans UK, si chiamano in America, per non confonderli, sì, perché certo se qualcuno se li confondeva con un gruppo psych anni 60, insomma il progetto di Tim Burgess, quella ondata dell'inizio degli anni 90 che vedeva Charlatans, Stone Roses e molti altri, soprattutto nella zona di Manchester, una delle grandi rivoluzionarie epifanie per me nei miei 20 anni con The Only One I Know. E sono arrivata al 13° album, Different Days, pubblicato poco tempo fa, che vede la partecipazione tra gli altri di Paul Weller, Johnny Marr, ricordo l'autobiografia Set the Boy Free, che potete trovare da Igor Libreria a Bologna o da Trame Libreria a Bologna. Vede anche la partecipazione di Steven Morris dei New Order o di Nicky Void dei Factory Floor. Questo è il singolo Plastic Machinery. Tra l'altro la giornata del 3 settembre è quella che vede in assoluto il maggior numero di artisti italiani, e per artisti non dico ovviamente i singoli nomi, ma gli ex, ovvero il concerto, la performance, il DJ set, quindi insomma diciamo il nome collettivo se ce ne sono diversi. Machine. E adesso, visto che abbiamo fatto una chiacchierata molto corposa e molto amichevole con Amedeo Lombardi, arriva la terza pillola della nostra intervista telefonica. Intanto voi contate. Ovviamente le giornate dei festival, tutti i festival che si rispettino, anche quelli che hanno un'offerta universale di tantissimi generi diversi come l'OM, ovviamente deve un attimo dividersi, no? Un po' per stili, almeno all'interno delle stesse giornate, per attirare poi appunto chi viene una volta oppure due volte, tre volte, non si fa tutto l'evento con il campeggio, ed è per questo che io sono una da primo giorno. Mi fa piacere. È molto bello. L'abbia visto, abbia notato, essendo una addetta tra virgolette lavoro, infatti c'è sempre una sorta di ferrugia fra tutti quanti i palchi o alcuni, insomma, fra gli artisti, nel senso che all'interno di una giornata dove ci sono 8 palchi che funzionano tra virgolette alternate in gruppi da 4, c'è sempre una sorta di collegamento temporale, di genere o anche appunto artistico fra le varie band, fra i vari artisti. E ti ringrazio perché, nonostante io abbia letto che diciamo il pubblico ideale dell'Home Festival sono i millennials, ho letto una tua dichiarazione, non so se fosse vero o no, cioè sicura gli alberi che crescono invece che quelli che cadono, io ti dico che insomma tra Duran Duran, ma anche i Wailers, ma anche i Charlatans e poi i Libertines, insomma chi era millennial so, 15 anni fa, insomma direi che anche l'appeal è universale anche per fasce d'età, perché se tu vai ai festival che prendi come modello, e l'hai anche detto, che l'aspirazione è avere gente di tutte le età, tante generazioni diverse, perché comunque io dico, se ti piace la musica a 20 anni, a 30 anni, perché dovresti smettere? La dichiarazione era, in quel caso, era per abituare un po' le persone al modo di vivere queste manifestazioni, quindi dico, no, non è che strizzavamo l'occhio al gusto musicale, perché per carità di Dio io ascolto veramente di tutto, oltre al fatto che quando mi chiedono la domanda, ma a te chi piacerebbe vedere, dico, cazzo, dei gruppi che vorrei ascoltare sono quasi tutti morti, per cui come la mettiamo giù. No, secondo me è proprio la volontà di voler educare, sai, le persone, i giovani, perché ad esempio io che sono oramai millennials superati da tanto, ho avuto sempre difficoltà perché dovevo andare a quel tipo di manifestazione, cioè il reading, dovevamo andare all'estero, per cui infatti, quando noi arrivavamo là era scioccante per noi, sai, vedere, che ne so, ieri noi tornando, cioè ieri, oggi scusami, tornando dal Tomorrowland, c'era la festa dentro l'aeroporto a salutare le persone all'interno della hall dell'aeroporto, e tu rimani scioccato. Beh, occupiamo l'aeroporto di Treviso allora. Sì, tra l'altro è anche vicino, e dico, ma come fai queste cose, ma perché noi no? E quindi abituare anche le persone, sai, nel voler stare tutti quanti insieme, del tipo, io nella stessa giornata, guarda, non mi piace quello che succede su un palco, vado da un'altra parte. Infatti uno dei primi errori più grandi che abbiamo noi dal punto di vista culturale è proprio il fatto di non capire che il festival non sono le rassegne, quindi manifestazioni durano magari tutta l'estate, che mettono sì 3 o 4 gruppi sullo stesso palco, ma festival è proprio il fatto di dire, guarda, sto suonando sul gruppo un artista che a me proprio non piace, vado a fare il bungee jumping, vado sulle giostre. Infatti questa qui è una differenza che anche noi sottolineiamo nella trasmissione, la differenza tra il festival e la rassegna. Per me è l'esperienza appunto immersiva di 3-4 giorni di seguito, che se stai in campeggio è ancora più intensa, di cose che appunto si susseguono senza sosta. Ci sono anche festival inglesi che hanno tipo il comedy stage, dove tutto il giorno ci sono stand up comedian, comici che fanno sì i loro pezzi, i loro fiori e quant'altro. Sì, ma secondo me quello è il festival, quello è un vero festival. Infatti quando all'inizio si parlava di esperienza, secondo me la differenza fra una manifestazione musicale e un festival sta proprio nel regalare un'esperienza, quindi il viaggio, il fatto di poter stare là, il fatto che durante il giorno conosci persone, fai cose diverse, perché sennò è la cerimonia del concerto che dura più ore, ma fondamentalmente è sempre quella. E poi magari ogni tanto ti riposi. Sì, anche, tra l'altro, ogni tanto c'è anche bisogno, sai, di riposare. E sicuramente nessuno potrà riposarsi durante l'incendiario set, l'abbiamo visti una volta alla live a Lisbona uno dei nomi italiani più conosciuti nel mondo, una certa scena elettronica molto rumorosa, ovvero Bassano del Grappa, Bloody Beetroots, l'abbiamo nominato poco fa, Sir Bob Rifo, ovvero Marco Cogo, Simone Cogo. Anche loro hanno pubblicato pochissimi giorni fa questo nuovo pezzo che si chiama My Name is Thunder, il mio nome è Tuono, e vede la partecipazione di Nick Sester, ovvero della voce, e poi anche di tutto il resto della band, dei Jet. Gli australiani Jet, che sono diventati famosi in tutto il mondo nel 2003 con l'album Get Born, che conteneva il singolone I'd Gonna Be My Girl. Poi insomma si sono sciolti, si sono separati, e Bloody Beetroots avevano pensato a questo pezzo, avevano pensato, cavolo, ci vorrebbe una voce come quella di Nick Sester, e poi hanno pensato, ma perché non glielo chiediamo direttamente? E poi, siccome nel frattempo la band stava già pensando di rimettersi insieme, e praticamente questo progetto ha coinvolto tutti i Jet, e siccome insomma diciamo che i suoni sono un po', le impronte sono un po' diverse, sono state fatte due versioni di questo pezzo, una un po' più elettronica e una un po' più rock and roll. Credo che questa dovrebbe essere quella più elettronica. My Name is Thunder. Insomma, non abbiamo ancora chiuso lo spazio del contest. La domanda è: chi è più veloce a contare? Quanti sono gli, diciamo, spettacoli, concerti, gli acts italiani che si esibiranno nella giornata di domenica 3 settembre, giornata per la quale Might FM regala, mette in palio ovviamente, grazie alla generosità di un festival, due ingressi per quella giornata, giornata conclusiva che vede dei nomi insomma molto di un certo peso. Abbiamo già sentito After Hours, Levante, Luce, Centrale Elettrica, i Charlatans, e ancora più grandi che non abbiamo ancora ascoltato. Ma torniamo indietro, perché giovedì 31 agosto, sempre per nostra fortuna, ci sono anche i Moderat. Come dicevo, la risposta esatta a quanti sono le band italiane, numero totale, che si esibiranno nella giornata del 3 settembre, che è anche appunto la giornata che ne contiene di più, deve essere mandata alla mail mighty4mau@gmail.com, ovvero mighty4mau@gmail.com. Stiamo ascoltando uno dei realtà pochi pezzi che ci hanno conquistato di questo ultimo 3 a numero romano, terzo album come Moderat, ovvero i Mod Selector più Apparat, lo sappiamo. E oltre a Running, che è indubbiamente il migliore, c'è anche questa dolente The Fool, Moderat. Thank you. come dicevo, la sequenza dei pezzi è stata decisa dall'ordine, dal basso verso l'alto, dei nomi che abbiamo scelto di passare, perché sono quelli che ci piacciono, del cartellone ufficiale dell'Home Festival. Quindi, partendo dai più piccolini, adesso siamo quasi arrivati alla fine. E insomma, quelli che cominciano ad essere belli scritti in grosso sono Charlatans, Moderat e poi questo atteso ritorno, London Grammar. Bones of ribbon, don't stop me now. Whites were blue, then went yellow. Feet, don't stop me now. They found me there in the sand. La voce molto suggestiva di Hannah Reid per un atteso ritorno, dicevamo, dal 2013 di If You Wait. Noi dedicammo una cosiddetta split puntata a London Grammar e Churches, che sebbene molto diverse, insomma, erano le sensation che erano venute fuori dalla Gran Bretagna contemporaneamente e sono tornate da poco con Truth is a Beautiful Thing, anticipato da un primo pezzo a Capodanno e poi da un altro a febbraio. Big Picture, coprodotto da John Hopkins, infatti si può sentire molto la tensione, il suono di sottofondo e le chitarre che però assomigliano piuttosto I Still Haven't Found What I'm Looking For the U2, e U2 a 30 anni dall'uscita di The Joshua Tree, ma c'è quello stesso tipo di emozione e di tensione, questa nota persistente e crescente appunto di sottofondo e il marchio di John Hopkins che si riconosce. Ma noi abbiamo invece scelto di ascoltare un altro pezzo, Bones of Ribbon, perché è leggermente più mosso degli altri. Dan Rothman e Dominic Dot Major. Un incontro all'Università di Nottingham e nascono i London Grammar. Uno dei nomi top dell'Home Festival e della giornata conclusiva domenica 3 settembre, mentre un altro dei nomi grossi in cartellone del venerdì sera, primo settembre, anche di questa giornata, abbiamo ascoltato poco, sono i francesi Justice, che abbiamo potuto vedere in uno show veramente fantasmagorico a livello di luci e scenografia, questo wall, questo muro di casse Marshall tutte illuminate. i Justice, che erano solo a Primavera Sound di Porto e non a Barcellona. Dal loro ultimo album, fine 2016, Woman, ascoltiamo Love S.O.S. Stiamo ascoltando Love S.O.S. dei Justice, ovvero Gaspard Auger e Xavier de Rosnay. Attivi dai primi anni 2000, quando poi fecero il botto attraverso un remix dei Simian, We Are Your Friends, non hanno fatto tante pubblicazioni frequentemente, ma l'ultima appunto è dell'inverno scorso, Woman. L'altra volta, nella puntata dedicata al Primavera Porto, avevamo mixato insieme, insomma, i pezzi principali per noi, soprattutto Sapien Sound, il primo singolo, e poi Alla Kazam. Se invece questa qui è la più posata, Love S.O.S., anche loro dei set incendiari, magari l'avrei visti più nella stessa giornata con i Bloody Beetroots. Ma siamo arrivati agli ultimi tre nomi, quindi top of the top, no? Top of the pop della programmazione dell'Home Festival. E il primo che ora ascoltiamo si esibirà sempre nella giornata conclusiva di domenica 3 settembre, è un grande ritorno, ovvero la premiata ditta Barat Doherty, The Libertines. Seeking and squats and theatre bars. There's a slasher on a Holloway Boulevard screaming monkey, monkey, monkey everywhere. Like tin soldiers responding to the call. Stakando we will call one and all. Oh, down to trash and lordy lords. By icons we will learn one and all. It was lost in a sound like this of times his mind told himself was blue. Allora, devo dire che io i Libertines, come direbbe Brancaleone, non li ho mai coverti. E quindi quando sono esplosi, sì, conoscevo i pezzi, però insomma niente di più. L'epoca degli Strokes, che Franz Ferdinand, sui primi anni 2000 con Up the Bracket, poi nel 2004 album omonimo, poi appunto questo rapporto di amore e odio, codipendenza malsana tra Barat e Doherty, che fonda i Baby Shambles, e poi una reunion ed un nuovo album solo nel 2015, Anthems for Doomed Youth, che quindi ho ascoltato e ho enucleato tre pezzi che mi sono piaciuti e quindi li ho mixati insieme. Il primo era Fame and Fortune, questo secondo è Belly of the Beast e il terzo è Milkman's Horse, The Libertine. Kisses heaven's rain. Love is rise and fall and fall and rise again. Tra l'altro si sono anche, diciamo, esposti, in quanto prima di un concerto quest'anno, prima delle elezioni in Gran Bretagna, hanno fatto salire sul palco il leader del Labour Party, Jeremy Corbyn. E un altro monumento della storia Britpop, poi insomma rock in generale, della Gran Bretagna, è il fratellino minore, anche lì della premiata ditta, se non che, sì, insomma, facevano sempre a botte, ovvero i fratelli Gallagher, Oasis, Liam Gallagher, nuovo singolo, per la prima volta lui da solo. Liam Gallagher è praticamente, insomma, l'headliner più, insomma, principale della serata di venerdì 1 settembre insieme a Justice. Album in uscita il 6 ottobre 2017, As You Were. E dopo questo primo singolo, Wall of Glass, è già uscito un altro che si chiama Chinatown. fra l'altro anche lui ha fatto un pubblico endorsement, quindi il sostegno pubblico è dichiarato al Labour Party, purtroppo non è servito. Ma dopo la fine della relazione burrascosa con Noel Gallagher e Oasis, un'attività con un'altra band di DDI dal 2009 al 2014 e finalmente sulle sue gambe dal 2015 e finalmente un album che uscirà ad ottobre. Insomma, dei suoni insomma, familiari, ecco, non ci saremmo aspettati niente di radicalmente diverso. Ti faccio un'ultima domanda. Adesso siamo appunto quasi ad un mese, meno un mese, che è anche una soglia psicologica per chi organizza un evento di questo genere, no? Cioè manca solo un mese, siamo sotto. Ecco, a che punto sono i preparativi? Guarda, i preparativi sono in fase, dal punto di vista della produzione, molto avanzata, anche perché noi, dal fatto che si ripete la manifestazione sempre per n anni, quindi hai già una base che vai a migliorare, che vai ad abbellire, diciamo così. Per cui in questo momento qua stiamo iniziando la struttura della casa c'è, quindi ora passiamo alla fase 2, che è quella proprio di rendere questa casa bella e accogliente. Abbiamo una forte concentrazione quest'anno dal punto di vista della sicurezza, cosa che noi, proprio per il fatto che facciamo parte dell'ETEP, che è l'unico ente europeo in pratica dove ci sono tutte le manifestazioni festival, appunto, ci eravamo già adattati a determinati parametri, a determinati canoni, per cui anche da quel punto di vista, diciamo, potremmo permetterci quasi qualche giorno di ferie ancora, qualche ora di relax, ecco. Buon per voi, io appunto ci sarò sicuramente il primo giorno. Tra l'altro per Duran Duran sarà la prima volta nella mia vita, perché ero troppo piccola ai tempi, dopo sai diventi un po' snob, però poi alla fine adesso vedi che è uno di quei gruppi che ha seminato molto, e anche tante cose che ci sono adesso non ci sarebbero state senza dei gruppi come Duran Duran, che un po' ai tempi venivano un po' schifati, no? Perché considerati un po' superficiali, i Bellocci, invece magari... conosciuto dagli anni 80, infatti poi la lotta così un po' superficiale tra i Duran, i Spandau eccetera eccetera, mentre magari alla lunga distanza possono essere considerati musicalmente insomma un po' dei pionieri, come che ne so i Depeche Mode, che già allora erano un po' più di elite. E niente, io ringrazio tantissimo Amedeo Lombardi del tempo che ci ha voluto dedicare e invito tutti quanti a finire insomma l'estate in bellezza con l'On Festival dal 30 agosto al 3 settembre. Vi aspetto a casa. Appunto, era l'ultima tranche dell'intervista ad Amedeo Lombardi, che l'abbiamo appunto voluta mettere prima del nome più grande in assoluto di tutto l'On Festival 2017, ovvero Duran Duran. Cioè, non c'è niente da dire su Duran Duran, cioè, alla fine. È vero che sono stati seminali e che non ci sarebbe stata la metà dei gruppi di pop e synth pop dei 30 anni successivi. Ed è per questo che noi finiamo in bellezza, ovviamente dando spazio alla loro ultima pubblicazione del 2015, Paper Gods, e questo singolone che era... Pressure Off, con la partecipazione di Janelle Monáe, che in quell'anno 2015, insomma, è stato un po' il suo anno d'oro, anche là il duetto per Venus Fly con Grimes e il suo pezzo, adesso non mi ricordo, ma l'abbiamo sentito qui in trasmissione, di denuncia e protesta per le morti dei giovani neri americani ad opera dei poliziotti bianchi americani. E da Paper Gods ascoltiamo anche un altro pezzo, uno dei tre pezzi che vede la partecipazione di John Frusciante, che sarà Butterfly Girl. E come dicevo, io che ero veramente nell'83, 84, 85, ero una super duraniana di ferro, ma non ero neanche però anti Spandau, però ovviamente riconoscevo la evidente superiorità di Duran Duran. Sarà per me la prima volta, perché diciamo che è un incentivo non indifferente, insomma, a parte tutti gli altri nomi che abbiamo sentito che suonano giovedì 31 agosto che mi piacciono, anche Duran Duran è veramente il non plus ultra. Dei nostri mix casalinghi, sinceramente mi pare che sia venuto bene. Butterfly Girl, dicevamo, un pezzo che vede la partecipazione alla chitarra di John Frusciante. Per i Duran Duran, nome super top headliner dell'Home Festival 2017. Invito chiunque ad andare a vedere quanto è vasto, siamo sui 90 nomi. E anche nomi, insomma, obiettivamente importanti adesso nella scena italiana, per il pubblico italiano o anche internazionale, tipo i Wailers, tutta la schiera di rapper, J-Ax, Fedez, appunto, poi Mannarino. Che ovviamente il target, sì, è ovviamente un pubblico di millennials. Ma anche noi siamo millennials, nel senso che anche se abbiamo mille anni continuiamo a partecipare a questi eventi. Ok, Paper Gods, l'ultimo album, ma come prescindere da tutti i grandi super hit che hanno fatto nella loro carriera? E quindi dicevo, vi invito a buttare un occhio al cartellone dell'Home Festival 30 agosto 3 settembre 2017, tra quelli che non abbiamo ascoltato, Steve Angello della Swedish House Mafia, dei giornalisti, Chris Liebing, DJ tedesco, Max Gazzè, Planet Funk, l'abbiamo detto, Frank Carter and the Rattlesnakes, che non conosco ma ho capito che è famoso, M+A, non c'è stata appunto nessuna dichiarazione del festival, ma come ho detto hanno dato forfè, ex Otago, Lele Sacchi, grande DJ, c'è anche qualche francese nuovo che voglio controllare, tipo i French 79, poi The Monology Hi-Fi, ovvero due dei Subsonica che da tempo suonano come DJ. Boom Da Bash, dico, i nomi che vagamente riconosco. DJ Set, c'è Pau Di Negrita che fa il DJ. Universal Sex Arena, che abbiamo visto qui al TPO per un episodio di Threesome. E poi personaggi come David Lyon, Raphael, insomma figli, insomma potremmo dire nuovi italiani, metà africani, metà italiani, che come Mudimbi insomma popolano fortunatamente il panorama musicale italiano. E poi dei gruppi più o meno diciamo di zuzzurelloni come i Deluded by Lesbians e The Minis. The Minis sono tre ragazzini che non arrivano a 40 anni, due figli di uno degli statuto che insomma li segue e li promuove, li cura e li fa crescere. Ma un tipo di progetto che a me non è che fa molta molta simpatia, perché se gli hipster adulti sono fastidiosi, figurati i bambini. Insomma, io mi sono andata a cercare dei Duran Duran Megamix, trovando anche delle cose abbastanza disdicevoli, e alla fine ho scelto questo mix che mi sembra abbastanza equilibrato, contiene tutti i pezzoni più belli dei Duran Duran, e quindi ve lo beccate fino alla fine per altri tipo 6 minuti. colgo l'occasione per mandare un caro saluto a Alberto, che come me, per ragioni non solo anagrafiche, condivide questa grande passione per Duran, ma come anche per gli Smiths, ma come anche per i Suede, ma come anche per i Divine Comedy. E vi saluto ricordandovi ennesimamente il Home Festival dal 30 agosto al 3 settembre, ingressi giornalieri 35 euro, mi sembra, insomma, con questi nomi mi sembra assolutamente ragionevole. Forse ci sentiremo ancora per l'ultimissima volta, giuro, per parlare di un altro festival dove ovviamente non andranno pochissimi italiani, ma io ci andrò, e quindi per condividere il mio entusiasmo per il Vodafone Paradiso de Coura forse farò un'ultima puntata la prossima settimana. Se così non fosse, beh, andranno in onda sempre le repliche, e poi alla vigilia degli eventi di cui abbiamo parlato, ovvero Today's e questo Home Festival, andranno in onda sempre le repliche, senza dimenticare lo speciale su Perfume Genius che suonerà appunto al Today's Festival il 26 agosto. E niente, questo è uno, diciamo, dei pezzi minori, invece per me è bellissimo. Tra l'altro ho rispolverato tutto grazie appunto alla biografia sui Duran Duran, che scoprono veramente cose turpi e turche, che mi regalò appunto Alberto. E niente, finisce questo Duran Duran Mega Mix. Buon ascolto con Mighty FM su Radio Kairos. Ciao da Claudia Mighty Mind.